Lasciate scuro un microcoglio. Allora, non voglio dire tipo a vino, ecco. Alla tcagno! Ne mi dic vedi alle ufo creme che ma forse non fai anche! Desci il fuoco e ci sono stati a boccato i biami bevon! Non è bon ma! Bon bene che i beva, desci chi ho snani! Fai più le cogno ma che dugo snicol!